ciò che ammirar ti face, e purgherò la nebbia che ti fiede. Lo sommo ben, che solo esso a sé piace, fe l'uom buono e a bene, e questo loco diede per arrar lui d'eterna pace. Per sua difalta qui dimorò poco, per sua difalta in pianto e in affanno cambiò onesto riso e dolce gioco. Perché il turbar che sotto da sé fanno l'essalazion dell'acqua e della terra, che quanto possono dietro al calor vanno, all'uomo non facesse alcuna guerra, questo monte salio verso il ciel tanto e libero n'è d'indi ove si serra. Or perché in circuito tutto quanto l'aere si volge con la prima volta, se non lì è rotto il cerchio d'alcun canto, in questa altezza che è tutta disciolta nell'aere vivo, tal moto percuote e fa sonar la selva perché è folta, e la percossa pianta tanto puote che della sua virtute l'aura impregna, e quella poi, girando, intorno scuote, e l'altra terra, secondo che è degna, per sé e per suo ciel, concepe figlia di diverse virtù, diverse legna. Non parrebbe di là poi maraviglia, udito questo, quando alcuna pianta senza seme palese vi s'appiglia. E saper dei che la campagna santa dove tu sei, d'ogni semenza è piena e frutto ha in sé che di là non si schianta. L'acqua che vedi non surge di vena che ristori vapor che gel converta, come fiume che acquista e perde lena, ma esce di fontana salda e certa che tanto dal voler di Dio riprende quant'ella versa da due parti aperta. Da questa parte con virtù discende che toglie altrui memoria del peccato, dall'altra d'ogni ben fatto la rende. Quinci le te, così dall'altro lato, e uno è si chiama, e non adopera se quinci e quindi pria non è gustato. A tutti altri sapori esto è di sopra, e avvegna ch'assai possa esser sazia la sete tua, perch'io più non ti scuopra, darotti un corollario ancor per grazia. Né credo che il mio dir ti sia men caro, se oltre promession teco si spazia. Quelli canticamente poetaro l'età dell'oro e suo stato felice, forse in Parnaso esto loco sognaro. Qui fu innocente l'umana radice, qui primavera sempre e ogni è frutto, nettare questo di che ciascun dice. Io mi rivolsi indietro allora tutto ai miei poeti e vidi che con riso udito avean l'ultimo costrutto. Poi alla bella donna torna il viso. Fine del 28° canto del Purgatorio.